Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Torni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! Un'esplosione di entusiasmo incontenibile! Prova a partire ancora Allan, è andato vuoto Nico Lopez, Pereira, però c'è Nico Lopez che butta l'area di rigore, c'è Badu, va via Nico Lopez, calcia con il sinistro, che rete bellissima di Nico Lopez al 77esimo, grandissimo tiro, è partito, lo hanno lasciato andare, un tiro in corsa straordinario al 77esimo minuto, Udinese in vantaggio. Trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa è 2-0 e il principe diventa re nella notte di Madrid. E qui ha fatto il suo corso. Al di là di quello che può essere teoricamente la governance che loro utilizzano, ci siamo trovati in grandi difficoltà. La difficoltà, come vi ho detto prima, l'ha avuta anche il massimo dirigente della Juventus, che è Andrea Agnelli, perché non siamo riusciti a capire che cosa fosse successo. E quindi chiaramente io mi guardo bene dall'estire un'ulteriore trattativa con loro, perché non dico che si possa parlare di mancanza di affidabilità, ma sicuramente di mancanza di serietà, sì. Bravo Franco Piantaneda, autore di questo programma. Pardo, te la sei persa questa, sei arrivato adesso. Lo so, ero nei meandri, ero almeno due. Ero anche un po' preoccupato perché mi hai detto domani vengo e tutto il giorno che non ti sento, mi sono anche regolato la barba. Abbiamo un appuntamento galante, sì, galante più tardi. Gianmarco Ferronato, sì, in regia. Interessante. No, allora ti riassumo, gli ascoltatori l'hanno già sentita, ma tu non c'eri. Mi ritorna in mente, no, che conosci benissimo, il gol di Shevchenko a inchiostrare la sesta Coppa di Campioni del Milan, poi il gol beccato da Nicola Lopez all'Udinese ieri sera, poi il gol di Milito nella finale, vabbè, di Madrid, e le parole di Marotta di ieri, che ci è andato giù pesante. C'è un ascoltatore che mi scrive, Franco da Mantova, ma sei sicuro che l'Inter avrebbe perso 3-0? Tuir non è lo sprovveduto che credete, non prende lezioni morali da Marotta. Sono sicuro che l'Inter ha perso 3-0, ero indeciso tra 3-0 e 3-1 perché era filtrata la voce che Vucinic non avesse passato le visite mediche. Balle, le ha passate. Sta bene, normalmente per un giocatore professionista. Ma tanto è vero che si è continuato a parlare, si continua a parlare di Vucinic all'Inter, anche perché insomma in piccolo rispetto a Guarin c'è anche il problema Vucinic per la Juve, nel senso che comunque è un giocatore che ha la testa da un'altra parte, che vuole andare a Milano, ieri girava l'ipotesi addirittura del Milan. Beh, è una brutta storia, però alla fine ma ti posso raccontare l'indiscrezione, pare, dell'ultimo contatto tra Toir e il dirigente della Juventus? Vuoi sapere? Vai. Stavano parlando, non so se via SMS, con questi mezzi che tu conosci bene, no? Siamo certo, molto tecnologico. A un certo punto lui ha detto, guardate, adesso devo andare, ho una conference call per il DC United. Ah, più sentito. Ah, DC United. Questo è quello che so io. Ma può essere, ma cioè, qui la cosa è che se appunto se sapeva tutto dall'inizio è grave, se non sapeva è altrettanto grave, cioè come ne esci male. Detto questo, insomma, alla fine sarà presa una decisione, adesso l'Inter dovrà affrontare il problema. A me sembra che sia più il ciò che racconta, no? Quello, ciò che racconta questo episodio, cioè il livello di confusione, di difficoltà, non aver previsto la protesta dei tifosi, aver cambiato idea, è più questo poi. Che può essersi arresi. Perché la figuraccia ci sta, ma il mercato è fatto di figuracce, è fatto anche di sgarbi. Insomma, se chiedi a Firenze della Juve di Berbatov, senti che ti dico, cioè, voglio dire, questo fa parte della logica del poi mercato. Ti ricordi la stessa Juventus con Stankovic? Fu una cosa molto simile, se non addirittura identica. Cioè, Juventus, società allora debole che si arresa agli umori della piazza, sì. E non presa da chi stanco, sì, fu la stessa cosa. Con una tempistica un po' diversa, diciamo che fu meno clamorosa perché insomma, diciamo che venne risolta un po' prima, no? Si capì che non c'erano le condizioni e non si andò avanti a procedere con quel tipo di trattativa. Qui invece nessuno si era posto il problema e quindi poi è successo quello che è successo. Ma ripeto, insomma, è la cosa preoccupante per l'Inter non è che sia finita così o la gestione della vicenda Guarin, che adesso ovviamente bisognerà in qualche modo rigestire, che certamente dal punto di vista della valutazione economica oggi vale meno rispetto a qualche giorno fa, non c'è alcun dubbio. Ma è proprio il senso di confusione che si è creata. E poi, insomma, secondo me, alla fine, sai come la penso? Tecnicamente non è che fosse una follia per l'Inter. Io sono con lo zio Bergomi, non ero entusiasta, ma secondo me non è una cosa così assurda. Con un conguaglio di 3, 4, 5 milioni è una trattativa che ci sta. Vucinic c'è un pallino di Mazzarri, lo voleva a Napoli, serve come il pane all'Inter. Quindi non mi sembrava una follia. Qui i due elementi sono stati: da un lato il livello di popolarità dei dirigenti dell'Inter, che è zero. Cioè, se non si presenta Branca e Fassone o si presentano con Messi e Cristiano Ronaldo, allora forse i tifosi all'Inter dicono: vabbè, ci hai convinto. Se no, in questo momento per loro lavorare è complicatissimo. E poi ovviamente il discorso politico, simbolico della trattativa Inter-Juve. Quanti poteri hanno Branca e Fassone? Perché anche questo non è chiaro, cioè quali limiti di spesa, quale mandato hanno Branca e Fassone? È questo il punto molto misterioso. Sai che secondo me che cosa dovrebbe fare, la mia idea, Toir? Prendersi un uomo simbolo dell'Inter di questi anni, fuori dai giri. I due nomi che mi vengono in mente sono, poi ammesso che lo vogliano fare, Oriali o anche Bergomi, cioè prendere un personaggio che rappresenti dal punto di vista della storia nell'azzurra qualcosa di importante simbolicamente per i tifosi, ma che sia fuori dalla gestione di questi anni, e dargli dei poteri. Oppure prendere un grande manager di un'altra grande società, non ce ne sono molti in giro, ma per esempio Pardè sta facendo un lavoro eccezionale a Firenze, Sabatini sta facendo un lavoro eccezionale a Roma, provare a convincerlo e portarlo a casa. Perché in effetti l'anomalia più clamorosa di tutta questa vicenda è che arriva un nuovo proprietario, prende il 70% delle quote, e però non ha suoi uomini. E si sente pure dire dal socio di minoranza che forse dovrebbe farsi vedere di più. Sì. Cioè, è una situazione paradossale. Potrebbe anche farsi poi vedere Moratti, di Moratti meno. L'ha fatto con eleganza perché è un uomo elegante. Però comunque sia, la sostanza era quella. Cioè, un socio di minoranza che dice: oh, ma vuoi venire qua perché c'è ma bisogno di potrebbe te. Anche farsi vedere di meno, a condizione che appunto ci sia un suo rappresentante plenipotenziario qui a Milano, cosa che non c'è. 800240024. Tra poco continuiamo a parlare di mercato. Parliamo ora, anche di Milano. E ora il traffico. So che ti piace. Tutti convocati. I was raised at a steelhead swamp, Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister. Abbiamo definito sconcertante il comunicato stampa perché in realtà conteneva delle situazioni non veritiere, delle situazioni false, pertanto la mia puntualizzazione si è resa necessaria in rappresentanza e a tutela dell'immagine della Juventus e anche di alcuni attori di questa vicenda, di questa direi triste vicenda fino ad oggi. Attori che sono i due calciatori interessati, i due professionisti seri, quali sono Guarin e Vucinic, che sono stati tirati in ballo, direi malgrado tutto, in modo assolutamente non corretto. In realtà questa trattativa era già stata definita tra le parti, era stata definita chiaramente con un accordo verbale, ma si sa che nel mondo del calcio e nella vita in generale sono delle regole non scritte ma che assolutamente devono essere rispettati. Accordi che sono stati raggiunti tra la dirigenza della Juventus da me rappresentata e la dirigenza dell'Inter rappresentata dal direttore generale Fassone. Devo dire anche, a supporto di questa tesi, che il presidente Andrea Agnelli ha più volte tentato di mettersi in contatto con il collega presidente Toir e nella giornata di ieri alle 10.48 ha ricevuto un SMS da parte sua che dava l'assenso definitivo all'operazione. Sai come si intitola questa canzone, Pardo? Wrecking Ball. Fra l'altro per me è molto complicato sentire le dichiarazioni di chi che sia sentendo questa canzone in sottofondo, nel senso che, no, ma a parte che Marotta ieri sera l'ho sentito in diretta e lo so a memoria, però Wrecking Ball è una roba, vabbè. Che è la palla per le demolizioni, diventata molto adesso nota. C'è un'altra, c'è un'altra Wrecking Ball, che in questo momento è in testa alle classifiche, con una donna che fra l'altro si spoglia in maniera Miley Cyrus. Non brutta, ecco, possiamo dirlo, lei, però ecco, a livello di canzone diciamo che... Io l'ho vista come Anna Montana in mille puntate di quella roba per bambini, adesso mi vengono abbastanza i brividi. Ma ci sono molti commenti, eh? Allora c'è chi dice completamente d'accordo con voi, Bergomi, Oriali, Zenga, gente che rappresenta la storia dell'Inter, c'è chi dice ok per Oriali, ma Bergomi è un venduto, io non lo so, a me sembra, io Bergomi lo conosco, tutto mi sembra meno che un non interista, poi se commenta le partite è chiaro che deve commentare con onestà intellettuale, questa è la mia idea, eh? Allora meglio il grande Evaristo, ovviamente il riferimento a Beccalossi. La vera vittima è Toir, che comprando l'Inter non si è reso conto del caos in cui andava a mettere le mani, ci scrive Sara. E poi ancora evidentemente il conguaglio non lo davano e poi saltato fuori il clima di Calciopoli, mai più con la Juve, Ulisse che evidentemente è un tifoso interista, la questione è più semplice, ci scrive un altro, nessun giocatore dell'Inter deve andare alla Juve, insomma clima da guerra fredda, da muro di Berlino, ogni sgarbo fatto ai Gobbi è un favore fatto allo sport, mi sembra adesso veramente insomma, vabbè, comunque siamo ai messaggi ultra, sì, siamo però insomma voglio dire, evidentemente ci sono dei tifosi all'Inter, lo registriamo come dato politico, che sono molto contenti che questa trattativa sia saltata. Tutti i tifosi dell'Inter, ma sono contenti per motivi politici. Carlo Laudisa, che parla, era come espertissimo di calciomercato, ma anche a nome del quotidiano sportivo della città della Grande Depressione. Ciao Carlo. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Sì, siamo depressi perché queste voci che appena dato voce dimostrano quanta difficoltà ci sia in questo momento, questo revanchismo, come lo potremmo definire, no? Che Laudisa agitare l'orgoglio nell'azzurro, non mai un giocatore alla Juve, sono constatazioni secondo me figlie di altri tempi, perché al di là di tutto io credo che il calcio italiano non abbia bisogno di divisioni, abbia bisogno di rivalità sul campo, è bene, ma questi steccati sono anacronistici, sì, a mio modo di vedere. Poi... sono anacronistici certamente, è follia pura il fatto che decida la piazza, non solo in questo caso ma in ogni caso in cui è successo, ed è successo ricordavo prima anche alla Juventus, tutto questo è vero. Resta il fatto che strategicamente, politicamente, usa l'avverbio che vuoi, in questo momento per l'Inter mettere in piedi uno scambio di questo tipo con la Juventus era fatale, avrebbe provocato queste reazioni. Ma ci sono ancora margini per lo scambio Vucinic-Guarin? No, per lo scambio direi proprio di no. C'è una speranziella che l'Inter prenda Vucinic, almeno Vucinic lo spera. Però bisogna vedere poi Conte come la pensa, perché tra l'altro adesso in queste ore c'è un'altra bufera, no? Quella di Bologna, perché Diamanti sta per andare in Cina, la piazza non gradisce, se la prende col presidente, si fa il nome di Giovinco, però chi era Juve di Giovinco dando contemporaneamente Vucinic, io non ci credo, quindi sono tutte tematiche che in questo momento sembrano abbastanza complicate. Bella questa storia di Diamanti però, sì. Guangzhou di Lippi, beh, d'altra parte i soldi sono tanti, 9,3 milioni di euro incasserebbe un Bologna che alle casse vuote. Beh, e 3 milioni e mezzo lui. Posso citare un tweet geniale di Ivan Zazzaroni, va bene, un'altra sì, radio, un'altra di cui, ma insomma, voglio dire, siamo trasversali e post ideologici, che oggi ha detto Diamanti da Prato va in Cina, il mondo va alla rovescia, perché sappiamo che insomma Prato è una città popolata di tanti lavoratori che hanno, la testimonial che hanno quell'origine lì. Senti, ma invece Guarin, che succede? Il processo, diciamo, di riassorbimento della botta. Il processo di Appiano, invece di Norimberga, è il processo di Appiano. Oggi è tornato, però è guerra freddissima, perché l'Inter vorrebbe che andasse in Premier League, però ricordiamolo che lui 20 giorni fa addirittura aveva detto non Celsi, chiedendo 4 milioni di euro, sapendo di avere alle spalle la Juventus. E quindi... Sì. È un'altra bella gatta da pelare per Ausilio, non credo più per Branco, ma sembra abbastanza defilato. Quante possibilità ci sono che Guarino alla fine rimanga all'Inter? Io direi elevate, perché non c'è la situazione che c'era per Snyder, no? Di un anno fa, ricordate tutta quella vicenda. Mi sembrano ristretti i tempi, perché Guarino accetti. È vero che lui si gioca il mondiale, per cui se non giocasse in questi mesi rischierebbe di non avere poi un posto, ma la vedo difficile, perché comunque si è creata una situazione davvero rigida. Non a caso ieri Marotta ha messo in evidenza anche questo aspetto, il danno procurato ai giocatori, che ormai avevano già dato per scontato di aver cambiato maglia. Addirittura Vucinic aveva fatto le semetiche e le aveva anche superate. Sì, poi tra l'altro Guarin anche prima di questa vicenda non era esattamente nei cuori della curva dell'Inter, questo è un altro aspetto paradossale. Ma mi toglie un'altra curiosità, Carlo, ma Cellino dove trova 50 milioni per comprare il Leeds, club storico del calcio inglese, sta vendendo il Cagliari, dove li trova sti quattrini? Ma da quello che ho capito comunque sono pagamenti pluriennali, è un investimento da 50 milioni, e ora io tutti i retroscena della trattativa non li conosco, non escludo che ci siano anche degli altri soci, perché c'è un discorso anche di passaggio di azioni, perché era già eterogenea la proprietà del Leeds. A rendere tutto più difficile in queste ore c'era stata anche la comparsa di una banca dal Bahrain che aveva rilevato dei titoli di alcuni soci, e poi aumentando il prezzo, poi è uscita di scena, insomma. Vabbè, ho una vicenda prepariamoci a un gran casino, di Londra, non dimentichiamo che Cellino già due anni fa aveva provato a prendere il West Ham. Senti, ma il Napoli il difensore lo compra, secondo me dovrebbe essere la priorità assoluta. Dovrebbe anche un altro centrocampista, Secondo me è più il difensore che veramente... Beh, il difensore, chiaramente l'abbiamo visto nell'ultima partita di Bologna, le pecche sono state... Nelle ultime 20 partite. quella è più di altre. Però io so sempre l'idea, e credo che Benitez lo sappia meglio di me, che le difese vanno in difficoltà quando hai un centrocampo poco protetto. E il limite vero tattico del Napoli è proprio quello di non avere una cerniera lì davanti alla difesa che protegga i quattro lì lasciati un po' alla deriva. Quindi io credo che prenderà altre due, perché ne ha bisogno, assoluto. Ormai 10 giorni, anzi 9 alla fine del mercato, e bisogna fare di Don Alonso, che torna sempre, che è uno dei leitmotiv di questo mercato. 7 giorni alla fine del mercato, venerdì prossimo 31 gennaio. Senti Carlo, un'ultima cosa, ma il Milan pure depressissimo, perché ieri ha sbagliato la partita virtualmente più importante della stagione. Sì. No? Sì. Beh, Pardo mi dice sempre che qualcosa ad Allegri comprerà. Ad Allegri, ecco, là. A Sedor compreranno cosa? Essien. Questo discorso di Essien ritorna, perché stanno provando a dare Nocerino al West End. Se va in porto l'operazione, certamente Essien è il prescelto. A fisico, a piedi migliori. Bisogna vedere quanto sia efficiente dal punto di vista fisico, visto che aveva giocato poco ultimamente. Però tatticamente può essere più adatto ad un'opera che comunque rimane difficile, quella del Milan, perché anche ieri sera abbiamo visto che, Allegri o no, le note dolenti sono sempre le solite. Sì, come no, è così. Morale, se riescono a dare la sola agli inglesi, allora prendono Essien. Grazie Carlo. Abbraccio. Grazie a voi. Ciao. C'è un ascoltatore lì, Antonio Nocerino. Ma che non è la sola, dai. Ma dai, la sola. Sì, perché? Ma l'hai vista anche ieri sera? Va bene, andiamo oltre. Cosa c'è adesso? Ci dicono perché ironizzare sul traffico. Noi, io amo il traffico, cioè, so, nel senso, non è che amo il traffico, amo è veramente un appassionatissimo di questa, c'è cioè un cultore di questa rubrica. Io nasco ascoltatore di Radio 24. Adesso che cosa c'è? I mercati, la borsa, la borsa, le borse. Tutti convocati. Non si è messo in ordine, si è pettinato. Tra poco abbiamo un appuntamento galante. Sì, sì. 8024024. T'avevo detto. Siamo venuti per niente, perché per bene, niente si va. Posto. Alessandro da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo mi sono assentato, non so se avete ripreso l'argomento. Io mi chiedevo se era poi così alla pari, come avevo sentito all'inizio della vostra trasmissione, uno scambio tra un giocatore come Guarin, che ha 27 anni ed è valutato una quindicina di milioni di euro, con un giocatore che ha 30 anni e che a giugno, come Vucinic, era senza contratto e che quindi poteva andare via a parametro zero. Perché l'eventuale conguaglio sembra che si sia palesato quando poi hanno fatto questa inopportuna marcia indietro, inopportuna perché avevano già messo la faccia, ecco, da quel sì. punto di vista. E molte altre cose. Non sono così sicuro che Vucinic sia in scadenza, anzi lo tenderei ad escluderlo. Scade a giugno del 2015. Quindi c'è ancora un po' di tempo. Il cambio era previsto alla pari, poi l'Inter ha chiesto un conguaglio, cosa del tutto legittima. Su questo conguaglio si stava trattando, ma anche dal punto di vista delle plusvalenze, delle valutazioni contabili, l'affare ci stava. Quindi sì, non era una cosa così epocale, si ballava. E poi Vucinic c'è un pallino di Mazzarri, certo. Oltre che essere, secondo me, un buon giocatore, perché non dimentichiamoci che Vucinic quest'anno ha perso il posto perché si è fatto male in Juve Galatasaray. Lui si fa male a Juve Galatasaray, e da quel momento la Juve, per sua fortuna, trova l'esplosione di Llorente. Altrimenti Vucinic Tevez era la coppia di partenza di questo campionato. Anche se io trovo meglio assortita quella attuale, sì, ma assolutamente. Il fatto che la Juve fosse disposta a sacrificarlo vuol dire che sicuramente Vucinic c'è in calo nelle gerarchie, e quindi anche dal punto di vista della valutazione del mercato. Però attenzione, non è che Guarin sia adesso. Guarin non è Vidal, non è Strootman, certo. Sta facendo una stagione così. Ha fatto tre gol, fa giocando la seconda punta. In una squadra che ultimamente non produce moltissimo. Non è solo colpa sua, ma insomma, io i fischi dei tifosi all'Inter per Guarin l'ho sentiti. Per cui adesso fare di Guarin una volta sola. Ma, secondo me, la valutazione, il problema non è stato tecnico, il problema è stato politico, simbolico, ed è ovviamente strettamente legato a un gruppo di dirigenti che in questo momento è inviso ai tifosi dell'Inter. Uh-huh. Giusto o sbagliato che sia, non lo so. Branca c'era pure negli anni in cui l'Inter ha vinto il triplete, questo bisogna dirlo, se non è per onestà intellettuale, perché altrimenti sì, ma sai chi comandava allora? No, ce n'era uno che comandava, ho capito, e decideva ho capito, voi però, fate quello però, che dico però, io però, secondo me c'è un discorso di onestà intellettuale. L'Inter di Branca in questi anni non è che è andato a prendere schiaffi ovunque sempre, ha fatto anche dei colpi di mercato importanti, ha fatto anche una campagna acquisti nell'anno che poi ha portato al triplete eccezionale, quindi insomma Lucio a 3 milioni me lo ricordo, per dire, un giocatore che poi fu fondamentale quell'anno lì, la cessione di Ibrahimovic, l'acquisto di Eto'o, insomma sì, voi sì, direte c'era Mourinho, anche la sola di Lucio alla Juve, no? Sì, beh, però quella era una storia finita con l'Inter. Era una storia finita con l'Inter, e anche un giocatore ampiamente finito che la Juve si è portata a casa, poi disfandosene alla velocità del suono. Augusto Genova, buongiorno. Buongiorno. Dunque, grazie della convocazione. No, io volevo parlare di calcio giocato. Sì. Ecco, una cosa che ho visto ieri, un fallo veramente grave fatto da Maxex su un giocatore. Un povero giocatore dell'Udinese che non ha neanche reagito, ma un fallo da espulsione altro che quello di Immobile su Tevez, secondo me. Non so, non è stato stigmatizzato da nessuno, cioè perché l'ha fatto un milanista e ma c'era no, ma cosa possiamo allora Augusto è stato no, ma non c'entra nulla questo. È stato un fallo molto duro di gioco. Stigmatizzarlo cosa vuol dire? Dobbiamo chiamare la polizia? Non avrei idea. È stato un fallo molto duro di gioco. Se l'arbitro tirava fuori dal taschino il cartellino rosso, forse ci stava anche. Detto questo, non vedo perché il giocatore udinese avrebbe dovuto fare dar due pugni a Mexes. Insomma, l'arbitro l'ha visto bene. L'abbiamo visto bene tutti. Fallo molto duro di gioco. No, semmai vale possiamo. diciamo, accogliere, diciamo, la richiesta, secondo me, e inserire questo episodio nel file del nervosismo di Mexes di una stagione sicuramente molto molto negativa. Questo sì, è un ulteriore segno. Ogni tanto parte la brocca, no? Lo sai, appunto, è sempre stato un giocatore così. Ed è sicuramente una stagione fallimentare per lui. Poi io quello che ho visto fare a Spalletti l'altro giorno, onestamente, in Catania Fiorentina, secondo me è al primo posto, purtroppo, delle classifiche, sì, degli interventi brutti di quest'anno. Detto questo, il Milan ieri sera, insomma, brutta cosa, eh? No, ma grave. Poi dicevo, è stata la partita virtualmente più importante della stagione. Sono dove d'accordo. Può andare il Milan in Champions League? Dove? Da nessuna parte. Campionato finito, l'ho detto prima, gioca per una cosa molto importante che si chiama dignità, che in questo momento ha perso. No, ma ieri era, quando si dice una finale, no? Ieri era una finale per il Milan, perché poteva essere la scorciatoia per trovare almeno l'Europa League attraverso la Coppa Italia, oltre ovviamente alla possibilità di regalarsi un po' di gloria. In più, con tutto rispetto per Fiorentina e Siena, evidentemente quello è il lato un po' più debole, sì, del tabellone, insomma, di là c'erano Juve, Napoli e Roma, le prime tre del campionato. Senti, mettiti a posto i capelli, dai, pettinati, allacciati la cravatta. Perché? Abbiamo un appuntamento galante. Tu sai che io ho alcuni presidenti per cui stravedo. Ho capito. De Laurentiis, va bene, sei ma il primo sì, in casa. Sì, sì. No, vai. Il mio presidente preferito chi è? Il mio è Valentina Mezzaroma. Buongiorno, come va? Buongiorno, come state ragazzi? Tutto bene? Bene, non puoi cominciare così. Qua c'è gente debole di cuore, voglio dire, noi ci emozioniamo per molto meno, eh? Certo, io sono in clima prepartita, quindi mi potrai immaginare, insomma, sono un pochino nervosetta, sai, quando hai quello stomachino che ti fa male, tipo quando vai a fare gli esami a scuola, all'università. Ecco, io sono in quelle condizioni. Senti farfalle nel tuo stomaco. Ho capito. Esatto. Senti, cos'è sta storia del lato del tabellone meno nobile? No, non meno, no, ma allora, non te la prendere su, no, non meno nobile. No, è vero, perché la Juve, da una parte c'erano Juve, Napoli, Roma e Lazio. Sì. E dall'altro Milan, Fiorentina, Udinese e Siena. Grosso modo, hai ragione, sono identici. Ma poi il bianco-nero che avanza non è quello della, esatto, Juventus, no? Senti, ma non è che ti interessano Vucinic e Guarin? Guarda che vengono via per poco, ci sono i saldi, eh? Mamma mia, non la voglio commentare, sto zitta, non la voglio commentare. Ma li vuoi o non li vuoi per il Siena? Ma tutte e due sì, volentieri, due. Ovviamente parametro zero, perché loro devono essere, certo, onorati di venire a giocare a Siena. E l'ingaggio lo deve pagare la società che dà i giocatori, perché Sta claro. È una questione, no? Esatto, ecco, perché mi sembra. Li dobbiamo far giocare questi due giovincelli, li dobbiamo far esplodere nel mondo del calcio, quindi vengono a Siena, la città è meravigliosa, si mangia bene, fantastico, ci guadagnano solo loro e ovviamente noi. Senti, sai cosa è successo il 4 settembre del 1260, vero? La battaglia di Montaperti. Grande Mezzaroma, che personalità, eh? Quanta cultura. Ma che cultura, da quando sono arrivata? Beh, d'altronde tu arrivi da Roma, la prima cosa che leggi, Montaperti. E invece cosa? Che per noi, voglio dire, una battaglia che hanno vinto i senesi, punto. Nel 1260. Non c'è da discutere. Ma pensa una finale. Oh, fai gli scongiuri che vuoi, eh. Finale Roma-Siena, finale di Coppa Italia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, io comunque, lo sapete, Siena nel cuore per sempre, quindi sarebbe un caso fantastico, ragazzi. Vi rendete conto se dovessimo vincere la Coppa Italia, una squadra di Serie B che vince la Coppa Italia? Per carità, si può sognare, bisogna sognare, perché i sogni non costano niente. Quindi io e Pardo ci siamo schierati dal punto di vista del tifo, no? Ma io tifo per la Mezzaroma a prescindere, ma se compra Rubin Kazan, io comincio a cantare in cirillico, comincio a cantare Rubin Kazan. Cioè, proprio sono aperto. Però un'altra cosa che mi intriga, se sarebbe adesso stasera derby di Toscana per fare la storia, però pensa semifinale di Coppa Italia tutta bianconera senza la Juventus. Mica male. Comunque adesso, insomma, vogliamo vuoi darci la formazione? Bellissimi, meravigliosi. La formazione di stasera vuoi darcela in tempo reale? Allora, guarda, io ho visto il mister, sono convocati parecchi, se ne portano dietro 24, che lui solitamente, sai, ci sono quei mister che ne portano di più e i mister portano di meno, invece ho visto che Beretta ne ha portati parecchi, quindi il tridente rimane. Tra l'altro con un costo per la società, perché il viaggio da Siena a Firenze, insomma, comunque. Vero? Sì. È lunga, è una trasferta lunga, signori, che insomma dura da affrontare. Guarda, però ti dico, il pullman quando arriva in quelli Firenze non so come sarà accolto, lo so. Pier. Però perché io... i fiorentini dicono che siamo il topino piccolo, che Siena, insomma, non lo guardano come derby, però ho sentito, ho visto qualcuno che sul mio profilo Twitter ha iniziato un po' a darmi dei pizzicotti, quindi evidentemente un pochino diamo fastidio anche noi alla Firenze, dai, veniamo presi in considerazione. Beh, giusto, quindi stasera, ma poi d'altronde ragazzi è un bel derby toscano, ecco, diciamo così, è questo poi, quello che conta. Poi la classica partita in cui avete tutto da guadagnare, la Fiorentina tutto da perdere, la classica partita bella da vivere, dai. È il derby dell'arte, Fiorentina-Siena, cioè, non è esattamente Aston Villa-Manchester City, con tutto rispetto per Birmingham. Come è andata, in Inghilterra a Capodanno? Guarda, meraviglioso, bellissimo, la partita del primo gennaio con un clima bello. Fulham West Ham, giusto? Esatto, solo pioggia, solo pioggia. Ha piovuto dall'inizio alla fine, oltretutto a vento. E questa cosa ci piace, no? Perché fa molto calcio inglese. Anche sì, purtroppo, mi piace. Devo dire che chi stava con me mi ha mandato tutti gli accidenti del mondo, perché una settimana di Londra solo pioggia, abbiamo visto solo due mattinate di sole e mi ha detto, e ti piace vivere qua? E ho detto sì, purtroppo sì, che ci devo fare? It's an amazing atmosphere, yeah? Lovely, grandissima. Oh, accento perfetto, accento perfetto. Ha vinto il Fulham, i colori sono bianco-neri, quindi ho portato fortuna. È l'anno del bianco-nero, abbiamo visto anche a Pitti Uomo, ma bianco-nero spacca. Press, sì, quando ci inviti, quando inviti me a Pardo a Siena? Ma voi siete ospiti in onore quando volete, ragazzi. Sì, più che altro devi venire a Tiki-Taka. Io ti ringrazio dei tweet, fantastico. Devi venire in trasmissione, adesso organizziamo. Vabbè. Comunque, Farelli in porta, Matteo. Farelli in porta, sì. Sì, Giacomazzi della Fiore, Giacomazzi. Angelo Pulsetti, Valiani, Feddal, Rosina, Giannetti, Paolucci, Guarda, bel tridente, anche perché a me piace la soluzione quando mi mette Paolucci al centro, perché lui è una punta centrale, e mi piace tantissimo, insomma, questa scelta, cioè questa è la mia formazione ideale. Ecco, i presidenti che fanno la formazione, mai. Però io che sono un amante, mi piace tanto il calcio, mi è sempre piaciuto solo il campo, con il mister ogni tanto ci divertiamo a parlare, però sempre con rispetto, non mi sono mai intromessa e mai lo farò, perché sono ignorante, lo ammetto, io faccio altro nella vita, però devo dire che i mister si anche con Conte lo facevo. Senti, di là non c'è, chiaramente non ci possono essere né Pepito, gli facciamo un altro grande in bocca al lupo, né Mario Gomez né Matri, quindi Ilicic, Cuadrado, Joaquin, chi ti mette paura? Cuadrado. Io lo guarda, è un giocatore che a me è sempre piaciuto già quando militava nel Lecce, ne parlavo anche con Serse quando fu nostro allenatore, e lui mi disse che era, cioè, doveva esplodere ed è esploso questo ragazzo. Cuadrado mi fa tanta paura, velocissimo, preciso, mi piace tantissimo, ecco, pure un altro giocatore che mi accatterei volentieri. Buon, quindi attenzione, però tutta la rosa della Fiorentina, non a caso è sta dove sta. E poi meriti tanti a Vincenzo Montella, perché i meriti vanno a lui, secondo me, che è molto bravo a tenere il gruppo, a fare le scelte, a tutta la società della Fiorentina. E anche a chi gli pigli i giocatori, perché sono bravi pure quelli. I rapporti con la società sono buoni, quelli della Valle? Sì, assolutamente. Quindi ti presenti con le tozze ai piedi stasera? In segno di amicizia? No, assolutamente no, rigorosamente in bianco e nero. Nero e basta, vabbè, con i miei colori ufficiali, quindi è chiaro, ovviamente. E ovviamente se dovessimo far gol con i dovuti scongiuri mi alzano in piedi per festeggiare, questo è chiaro. Tutti mi hanno detto stai tranquilla, non ti devi alzare. Ma che stai tranquilla? Ma no, ma scusa, se guarda Galliani, voglio dire. Sì, che ha peccato la monetina in testa. Io spero che, insomma, di non essere l'obiettivo di nessun tifoso viola, perché insomma, sono sempre una signorina, insomma, d'altronde. No, quindi se hai bisogno tu, chiamaci, se hai bisogno di Security chiama Pardo. Chiamo Pardo, bodyguard. Tanta attenzione, perché non è uno scherzo questo di Linea 3, vero ragazzi? No? Per la notizia, Sandro Rosell ha decidido di dimitir de su cargo le presidente del Barcellona, si sarebbe dimesso da presidente del Barcellona. No. L'annuncio verrà fatto questa sera, l'ammissione a tramite del Quest Rules, dopo il caso Neymar, è stato il detonatore della sua rinuncia. A partire da questo questo momento l'intenzione di Roselle e della giunta direttiva è che la presidenza passa di mano a Josep Maria Bartomeu, vicepresidente del club, fino alla fine del mandato, che scadrà nel 2016. Vedremo se verrà confermata questa indiscrezione del mondo deportivo, questo clamoroso ultimo ora, con appunto le possibili dimissioni di Roselle. Mentre la mezza Roma non si dimette stasera, Fiorentina Siena, in bocca al lupo a tutti e due, ovviamente. Ciao presidente, ecco, divertitevi ragazzi, per noi seguiteci, mi raccomando. Vabbè, di sicuro. Ciao. Sì, poi dopo un bacio. Ciao. Poi dopo parlo con quelli di là di radio, faccio, ma non si scherzi, ci si vede al Marisa. Cioè così. No, però la salutiamo. Valentina, un grande abbraccio. Traffico fra Firenze e Siena stasera, pazzesco. Tutti convocati. Allora parlo, andiamo sugli ascoltatori. Sì. Simone. Sì, buongiorno. Ascolti, volevo io collegarmi al discorso che ha fatto Marotta. Che lui ha detto praticamente che l'Inter ha un po', tra virgolette, maltrattato i giocatori nella trattativa. E volevo chiedere, allora perché Vucinic continua a insistere a voler venire all'Inter se Marotta dice che li abbiamo maltrattati, visto che aveva altre anche offerte? Non capisco perché continua a insistere a venire lì. No, Marotta dice che l'Inter, ovviamente il suo punto di vista, ha gestito male, e quindi due giocatori che sono mentalizzati, come direbbero gli spagnoli, sull'idea di partire, a un certo punto sono stati trattati male. Questo gli fa svuotare l'armadietto. Il fatto che Vucinic voglia andare all'Inter è un'ulteriore conferma di questo, no? Nel senso che Vucinic se ne vuole andare, Guarin voleva venire alla Juve, e il rifiuto, il clamoroso dietrofront dell'Inter, secondo Marotta, quindi è intervenuto a maltrattare i giocatori. Il discorso è questo: gli fai svuotare l'armadietto, lo fai arrivare a Milano, fa le visite mediche, eccetera, poi dici no, guarda, torna a casa perché qua non si fa più niente. Insomma, se vogliamo leggere un maltrattamento tra mille virgolette, è in questo, nella gestione dell'affare nel complesso, non è che hanno ammenato, eh. Alessandro, Luca, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Vabbè, in questo argomento che tirate fuori voi su Vucevic e Guarin mi sembra veramente strano, perché comunque sia l'Inter, anche se prendesse questo giocatore che in realtà è un mediocre giocatore di Serie A, non penso che risolva i problemi sicuramente dell'Inter. L'Inter mediocre problema, Vucevic? Quelli ma bravi? No, allora mi dica quelli sì, bravi chi sono? Ma quelli bravi, per quanto mi riguarda, io ho 51 anni, mi ricordo altri nomi, ora non vorrei entrare nella preistoria, ma Van Basten, Zico, va bene, sì, no, sì, ma ho capito, ma se lei mi dice mediocre giocatore, no aspetti, se lei mi dice mediocre giocatore di questa Serie A, mi dica quali sono quelli bravi di questa Serie A, poi... Di questa Serie A qui guardavo la formazione dell'Inter con questi Mariga, con Tiger, Kovacic, Nagatomo, Jonathan. Questi sono bravi? Certo, se ci entusiasmiamo con l'Inter che dovrebbe rifondare una squadra con Rolando, Pereira, Jesus, è veramente triste la situazione. Appunto, quindi, lei mi dice, se sono questi, Vucinic è forte. Di classe? Mazzarri? Non ho capito niente, perché c'è la linea disturbata, mi ripeta. Mi scusi, sì. Mi sente? Sì. Mi sente? Sì. Tiene che da questa mediocrità di giocatori della Serie A, Vucinic sia il giocatore che risolve i problemi dell'Inter? Come tutti. Mazzarri rispetto a Stramaccioni? No, tutti cioè, no, qualcuno sì. No, ma ascolti, allora, parliamo seriamente. Lei ha fatto un lungo elenco di giocatori che secondo me sono veramente mediocre o comunque non fortissimi per l'alto livello. Ora, se vogliamo dire che Vucinic è un brocco, non ci sto. Secondo me Vucinic è un eccellente giocatore, non risolverebbe tutti i problemi dell'Inter, ne risolverebbe certamente qualcuno in avanti, tanto che Mazzarri lo vorrebbe e l'avrebbe voluto a tutti i costi. Voglio dire, adesso non diciamo che Vucinic sia brocco. No, insomma, a me sembra... Poi, ripeto, quest'anno si è fatto male, ci può essere il punto interrogativo sulle sue condizioni fisiche, sulla continuità fisica, ma il giocatore... lo conosciamo benissimo, ne conosciamo anche qualche difetto. A Roma dicevano che certe volte scendeva in campo col pigiama, no? Che sembrava essere appena, sì, che si era appena svegliato la mattina. Sì. Però è un giocatore che ha un talento molto molto importante. È stato il titolare della Juve l'anno scorso. Non solo il titolare, ma anche il giocatore che gli cambiava il voltaggio. Cioè, era il giocatore che faceva la differenza, che ha fatto la differenza in molte partite, a prescindere dal numero dei gol, perché secondo me Vucinic non va letto soltanto come gol segnati. Poi è uno che ha carattere balcanico, quindi come dice Pier giustamente molte pause, non è un mostro di continuità, ma ragazzi ha dei colpi che all'Inter in questo momento non ha nessuno. Andiamo nella provincia, certo, di Monza e Brianza. Mirko. Sì, buonasera. Da come avete capito il mio accento, io sono di Monza, quindi non ho nessun ma l'abbiamo anche visto scritto, nessuna polemica a fare questa domanda. Comunque quello che vi chiedo a voi due, vi voglio distrarre per l'ennesima volta da questo discorso del gioco calcio. Adesso voglio vedere domenica come finirà con il Bologna, se la curva verrà squalificata. Per i cori razzisti verso il Napoli, perché di cori razzisti o di territoriali? Io ancora faccio fatica a capirlo. Sì, faccio fatica anch'io, però la curva, stanti le norme vigenti, verrà squalificata con la condizionale. No, è stata già squalificata con la condizionale. Per cui diciamo che la prossima volta, domenica non lo vediamo perché il Bologna gioca fuori casa a Genova con la Samp, anche se sappiamo che poi anche dal settore ospiti, fra l'altro sulla questione del settore ospiti, sapete, ne abbiamo discusso lungamente, siamo proprio alla follia perché il settore ospiti non sempre corrisponde. No, i tifosi del settore ospiti possono essere di settori diversi dello stadio, e allora chi squalifichi? L'unica cosa col biglietto nominale dovrebbe essere, se ci sono degli episodi di questo tipo fuori casa, e l'ho detto quando ci sono state le situazioni che hanno riguardato l'Inter e la Roma, quando succedono queste cose fuori casa, visto che c'è il biglietto elettronico nominativo, si squalificano al massimo tutti quelli che sono stati in trasferta, che già è una forzatura giuridica, perché magari su 1000 persone 200 hanno fatto i cori e gli altri 800 che c'entrano, però comunque è già un modo per circoscrivere la cosa a chi realmente era in un luogo, e quindi si può essere reso protagonista in negativo di quell'episodio lì. Bah, secondo me siamo veramente al regno dell'aria fritta. No, ma il problema è un problema enorme. Purtroppo non c'è la soluzione adatta. Mentre intanto è arrivato il signor Cruciani dall'altra parte del vetro. Adesso verrà 5 minuti il signor Cruciani a portare un po' di garbo, un po' di serenità, un po' di calma e la pace del mondo. La pace fra gli ulivi, come canta Francesco De Gregori, guarda che non sono io. Invece adesso noi andiamo con il GR. Tutti convocati. Immaginate voi quale possa essere la credibilità di Danilo Di Luca. La prima volta che l'hai fatto, ti sei sentito in colpa? No, mi sono sentito come gli altri. Spiega meglio. Tornavo ad essere Danilo Di Luca che vinceva le corse. Quindi ti sei dopato perché non vincevi più? Sì. Per cui, per essere concreti, sui 200 ciclisti che partecipano al Giro d'Italia, normalmente quanti si dopano? Secondo me il 90%. C'è quindi un 10% pulito? 10% che non interessa in quel periodo il Giro d'Italia, che prepara altre gare e quindi non fa uso di doping. Quindi tutti quelli che ambiscono le prime posizioni nel ciclismo devono necessariamente fare uso di doping? È impossibile non far uso di doping e arrivare nei primi 10 al Giro d'Italia. Per cui possiamo dire che qualsiasi ciclista vincente non può non aver fatto uso di doping? Almeno una volta credo proprio di sì. Fra tutti quei campioni positivi al doping, cosa pensi di Armstrong? Armstrong, quando io sono stato trovato positivo, ha parlato anche di me dicendo che ero uno stupido. Perché ti ha dato dello stupido? Perché mi ero dopato. Però io Armstrong lo conosco, ha vinto 7 Tour de France e ne avrebbe vinte comunque, anche senza doping. Naturalmente tutti senza doping. Anche lui si è adeguato. Conosci un ciclista che non si è adeguato? No, mai conosciuto. Allora, avesse detto queste cose dopo la prima volta che è stato beccato, vabbè. Dopo la seconda, dopo la terza, dirle adesso, secondo me non ha senso. Ciao Giuseppe Cruciani. Che volete, ragazzi, su. Dai, adesso ci dirai che sei a favore del doping, che i ciclisti si dopano tutti, e questa cosa non ti sorprende, eh? No, ma io potrei anche essere a favore di una specie di doping leggero legalizzato. Come è dire. Doping no. Leggero, che è la marijuana. Che no, alcune cose sono no, la marijuana. Beh, lo sai che se beccano, credo, qualcuno con la marijuana, comunque lo squalificano. Sì, tranne nel football americano, dove c'è stata questa proposta del commissioner. Sì. Comunque, ragazzi, al di là del fatto che doveva dirlo prima, dopo, quando, come, perché, ha ragione o non ha ragione a dire quelle cose? Questo è il punto fondamentale, e tutti noi, anche senza avere le prove, sappiamo che è vero. Punto. No, io non lo so se è vero, però non mi sento di poter dire che sicuramente è falso. cioè sinceramente. Sì, ma poi vuoi fare il diplomatico? Il punto è molto semplice: certi sforzi non si possono tenere, non si possono reggere. Ora, che tutti si dopino nello stesso modo, non lo so. Che le parole di Di Luca siano un po' quello che tutti pensano al bar e tra gli addetti ai lavori, questo senz'altro. Allora tu mi devi spiegare perché la prima volta che è stato beccato, e anche la seconda e anche la terza, no, errore giudiziario, chiedo le contronave. No, vabbè, quello è l'uomo. Allora, è l'uomo. L'uomo è fatto così. Allora, l'uomo parla, però ecco, non no, l'uomo ora. Di Luca, però l'uomo, la credibilità. La credibilità dell'uomo non è proprio il massimo, questo lo possiamo dire. Questo è il quindi, e quindi anche le sue dichiarazioni le dobbiamo leggere alla luce di una credibilità che non è il massimo. Sì, o no? Diciamo che uno può, fa un po' giurisprudenza, sta cosa. Più vai avanti, sì, fa un po' giurisprudenza, però più vai avanti e più sei credibile, paradossalmente, perché non hai nulla da perdere, no? Perché ormai, dunque, quello che dice in realtà non gli viene né a favore né contro. Questo è il contraio, quindi sei meno credibile. No, è il contrario. Sei credibile se lo dici quando sei sulla breccia dell'onda, ti beccano. Vabbè, ragazzi, salvo. Catania. Sì, salve, grazie per la convocazione. No, volevo solo per inciso dire che comunque gli unici mediocri sono i dirigenti dell'Inter, che al di là, diciamo, della trattativa commerciale, probabilmente dimenticano molte volte che hanno a che fare con uomini e non, diciamo, con delle cose. Detto questo, da catanese ricordo il caso Maxi Lopez, che rimase in camera d'albergo aspettando, chiuso, aspettando praticamente lei da solo una settimana. Triste. Sì. Ci ho detto c'è, salvo, c'è di peggio nella vita, ecco. Adesso fatemi fare un attimo il demagogo, c'è di peggio, cioè, nella non sono vita, due barboni, Vucinic e anche perché e poteva Guarini. Uscire, cioè non è che doveva stare in camera d'albergo da solo, insomma, da solo era da solo, no, non volevo dire per favore le solite cose no, però insomma, diciamo che sicuramente era nella vita Riccardi, del calciatore lo sai, no, tu, certo, stavano, sicuramente nella vita del insieme. Calciatore ci sono delle piccole perdite di libertà che però credo siano ampiamente compensate dai soldi, dalla gloria, dal fatto di fare un lavoro divertente. Non capisco qual è la perdita di libertà in questo caso di Guarin. Questa mi sfugge. Cioè non lo so, non Salvo vedo, ha parlato. In te, non, parla non con vedo Salvo. Dove siano stati fustigati Vucinic e Guarin, non capisco. Vabbè, perché professionalmente non è bellissimo, come dicevate voi, andare a fare le visite, a svuotare l'armadietto e poi perché no, ormai ti no, brutto. Sì, non è bellissimo, no, non è bellissimo neanche andare a fare un colloquio con la speranza di essere assunto, adesso faccio veramente il demagogico, a 2000 euro al mese e poi ti dicono che il colloquio è andato male o magari hanno preso un altro al posto tuo, cioè voglio dire, rientra nella sfera delle cose, delle sfighe, delle piccole sfighe della vita, insomma. In questo caso viene fuori il pardo, viene fuori il vero pardo, demagogico, il pardo politico, pronto demagogico. Come rispondere all'antipolitica in questo momento, Cruciani? Come rispondere? No, però Salvo ha ragione in che cosa? Nel fatto che sicuramente nei confronti dei calciatori l'Inter si è comportata come si è comportata. L'abbiamo detto già mille volte. Però tutto. ripeto, sia Vucinic che Guarin, non bisogna mai dire poveri giocatori, cioè non sono due barboni lasciati a se stessi. Gli stipendi, e qui mi metto con Pardo, gli stipendi restano lì, restano in alto, restano gli stessi. Non è molto che demagogico sono... anche tu, eh? No, ma no, vero, ma voglio dai, dire, vero, dai, su. Vero. Ma ci sono anche altre cose. Adesso, per esempio, un'altra cosa banale, un'altra piccola banale perdita di libertà per i calciatori è tutto il discorso di Twitter, i social network che non li possono usare. Quella, se tu vuoi estremizzare il concetto, è una sorta è una di malattia quella, però. No, sono non d'accordo. Li possono usare, ma che vuol dire? Ma che sono? No, però voglio dire, ma se, pure se Obama tu la guardi dal punto, non può usare Vucinic, se tu la guardi dal punto di vista costituzionale, è una piccola è un andar contro quella che è una libertà fondamentale delle persone, che è quella di potersi esprimere in qualsiasi momento. Però anche quella mi sembra ampiamente compensata da una vita che regala tutta una serie di soddisfazioni. Non vedo grandi perdite di libertà. Ma no, ma appunto. In tutta onestà non vedo neanche grandi maltrattamenti, come diceva prima qualcuno, semplicemente è stato un affare gestito malissimo. Male, certo. Vucinic e Guarin si sono arrabbiati dall'Inter evidente. Si sono arrabbiati entrambi e adesso andranno via. Mi sembra tutto, dal punto di vista dei giocatori, non dico normale, ma conseguenziale alla follia era di questa trattativa. Era straordinaria la faccia di Fassone ieri, uno dei dirigenti dell'Inter, l'unico che ha parlato ieri, era bellissima, l'ho trovata straordinaria, questo faccione che rispondeva alle domande dicendo, beh, questo non vorrei commentarlo, ma come, quelli vanno detto che siete dei cialtroni, dei farabutti, no, questo, siete inaffidabili, eccetera, no, però su questa cosa non vorrei entrare. No, ma era fantastico, era fantastico, adesso non so se riusciamo a recuperarla, perché diceva, no, di questa cosa non abbiamo parlo, di questa cosa e del resto non parlo, quindi praticamente era tipo argomento a piacere. No, ma faccio la domanda, cosa risposta. Sorprendente è stato anche il fatto che la Juventus, l'Inter non abbia risposto alla furia, se vogliamo, di Marotta. Cioè Marotta l'abbiamo sentito in mille modi, Marotta è andato giù pesante, non è arrivata nessuna risposta da parte dell'Inter. Per il paese reale, Andrea Palmisano che ci scrive su Twitter, in effetti attraverso i vetri della sua Ferrari mi pare di aver intravisto un Guarin triste senza voglia di vivere. Questa ovviamente è la reazione di fronte al paese reale, veda, signor Giovanni, Giovanni da Milano. Sì, ciao. Ciao. No, scusate, volevo solo intervenire e rispondere agli interisti che, cioè, ma perché devono difendere per forza la loro società? Cioè, hanno fatto la figura dei cioccolatai. È chiaro che Guarin e Vucinic poverini, ovvio, cioè, può capitare. Però se devi difendere per forza dei dirigenti che si comportano così, fai ridere, dai. E poi ma non c'è nessun interista che li difende. Non credo che vengano difesi da qualcuno, eh. Semplicemente gli interisti sono contenti che l'affare sia saltato. Ho capito, ma dire che Vucinic è un giocatore scarso, cioè almeno Vucinic negli ultimi due anni è stato titolare di una squadra che ha vinto due scudetti. Guarin cosa ha vinto? Ma infatti questo è dire che Vucinic è un giocatore scarso è una sciocchezza. Ho capito, attaccarsi per forza a tutto. Io vorrei restare sulla parola cioccolatai utilizzata il signor Lind. Ma perché cioè non è che la Juve è andata dall'Inter di vedete prendere per forza Vucinic e darti Guarin. Sono stati loro ad andare a chiedere. No, Giovanni, lei ha ragione. Prendi vocabolario, Carlo. Scusa, Google la parola cioccolatai. Marta Cagnola ci dice: vabbè, tutti convocati testosteronico come oggi, quanta qualità. Cioccolatai, trova cioccolatai, dai. Cioccolatai. Giovanni, che vuol dire cioccolatai? C'è peracottaria, Peracottaria, lo so che vuol dire. Che figure faceva di cioccolatai per dire non fare la figura del cioccolatai? Ma i poveri cioccolatai, che dirigente sei, dai. Sì, ma ho capito perché sono 14 anni che sono qui a Milano, dunque ho un po' assorbito. No, ma perché poveri cioccolatai? Che c'hanno i cioccolatai? Che hanno fatto? Perché sono dei cialtroni cioccolatai? Perché hai la mano nella crema, cioè fai ridere, nel senso che non ci si comporta cioccolata. Così, dai. Allora l'espressione così, non lo so perché dai, pardon, su vai. Google quindi vai, non mi assumo la responsabilità. Risale a un reddito storico per protagonista re Carlo Felice di Savoia, 1823, un ricco fabbricante di cioccolataio girava, una cosa infinita, per le vie di Torino, una carrozza più sontuosa di quella del sovrano. Carlo Felice si infuria perché lo considera un affronto al suo rango ed esclama dalla sua corte di preparargli una carrozza migliore. Dice: quando esco in carrozza non voglio fare la figura di un cioccolataio. Sia vero o no non lo so, ma l'arrivo di Cruciani ha portato subito cultura. No, quale cultura? Il signor Cruciani, eh? Vabbè, dai, Maurizio della Spezia, che dobbiamo chiudere. Maurizio. Maurizio, pronto? Dica. Eccolo. Dica. Allora, buonasera a tutti, sono Maurizio, chiamo qui dalla sede della Spezia. Niente, io sto chiamando perché prima ho sentito un'intervista, cioè ho sentito da un telespettatore che dice, da quello che ho capito, che giudicava Vucinic un mediocre giocatore. È giusto? Abbiamo già risposto, sì. Ho capito bene allora. Beh, guardi, io non sono un tifoso juventino, ma non sono neanche un interista, però giudicarmi Vucinic un mediocre giocatore, rispetto in tutta la rosa che c'è all'Inter, beh, allora l'Inter mi sa che è piena di giocatori di l'abbiamo detto a questo abbiamo già detto sono d'accordo abbiamo un già detto è un ottimo giocatore Vucinic, è un ottimo giocatore, ci può essere qualche incognita fisica, ma è un ottimo giocatore piace molto a Mazzarri dai tempi di Napoli. Comunque anche questa storia l'abbiamo fugata, questa delle incognite fisiche di fatto non esistevano, cioè quanti hanno detto non ha passato le visite mediche, ebbene non è stato così perché ha problemi fisici, ginocchio, caviglie, schiene, cioè, ma come tutti i giocatori professionisti, cioè non è stato rimandato dopo le visite. Giuseppe Cruciani, grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Salutiamo anche Carlo Felice, il signor Carlo Felice. Saluto anche Pardo. Ci sentiamo domani? Sì. Non sì, vieni? Sì. Vediamo. Franco Pettinelli, autore di questo programma. Tasse domani. Sì, tasse addirittura. Gianmarco Ferronato in regia, ciao. Merci. Oh, ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma.